piaciuto il verde? Allora, bomba! Sveglia! Tutti convocati alle Olimpiadi di Carlo Genta. Buonasera a tutti, dunque giornata per il momento senza medaglie per l'Italia, per i colori azzurri, non che ci si aspettasse granché nemmeno dai campi di gara della canoa, però noi una medaglia d'oro la stiamo per vincere, perché sta salendo le scale, se non mi hanno informato male, non mi hanno tirato il pacco, non mi hanno preso in giro, sta salendo Elia, le scale Elia Viviani, che, per il quale Leo Turrini si è commosso. Ciao maestro! Come andiamo, caro Genta? Andiamo bene, grazie a lei. Sto aspettando Viviani. Allora, ti sei ricordato, in attesa di Viviani, di fare i complimenti a Marino Bartoletti? E i complimenti a Marino Bartoletti li faccio ogni volta, ma perché cosa? Ieri, nella sera brasiliana, la sua nipotina statunitense Marina Bartoletta ha vinto l'oro nel lungo. Ah certo, ora, se tu controlli Marina Bartoletta ha vinto l'oro nel lungo alle Olimpiadi, e lei chiaramente nipote del nostro marito. Eh certo, quindi bisogna che lo chiamiamo. Quando interverrà avrai modo di chiederglielo, chiamalo, hai capito? Sì, sì, dobbiamo chiamarlo. Avrà dei parenti nell'Oregon piuttosto che nel Tennessee, e quindi è una medaglia mezza italiana. Io sono sicuro che ci sta ascoltando, e quindi complimenti glieli faccio pubblicamente insieme a te, attraverso il Mondo Visione, attraverso i microfoni di Radio 24. Comunque 800 24 00 24, questo è il numero verde per chiamarci, per mettervi in contatto con noi, per parlare con la medaglia d'oro che sta salendo le scale di Radio 24, Elia Viviani. E se perdete questa occasione, beh, io non so più cosa dire. Messaggi SMS, WhatsApp, anche vocali, 349 238 6666. Abbiamo un sacco di sorprese anche in musica per voi. Leo Turrini, la giornata di oggi che cosa ti ha detto? Oggi hai fatto flanella, fin qui non hai scritto manco una riga. Siamo tutti, allora guarda, da un lato siamo tutti proiettati, dato che hai citato la musica, su un famoso brano di Vasco Rossi del 1979, Non siamo mica gli americani, perché domani c'è questa doppia sfida Italia-Stati Uniti, sì, no? La semifinale del volley maschile e il match per l'oro nella pallanuoto, che se uno pensa, fatte salve le diverse proporzioni, i territori, la popolazione eccetera, ma prendendo le percentuali, quante piscine o palestre hanno a disposizione i ragazzi e i ragazze americani rispetto ai nostri, capisce la grandezza di essere con le nostre nazionali. Aspetta, Leo, guarda, in diretta ti faccio la radiocronaca diretta dell'ingresso qui della medaglia d'oro Elia Viviani, che saluto. Ciao Elia, grazie. Ciao. Ciao. È arrivato qui da noi, hai capito Leo, ti ha mollato lì a Rio e adesso... Bene, adesso... lo abbraccio da qui e vorrei, insomma, invitare, avere la consapevolezza che la sua partecipazione a tutti i convocati alle Olimpiadi è la settima prova dell'Omnium, Elia. Tu non Oddio. Sai cosa ti aspetta, hai capito? Credo non che sia molto più aspetta. Semplice, molto, ma molto più semplice. Me lo auguro. Ma sai, con Leo Turrini è un casino. Perché, no, ma l'altro giorno anche Andrea Zorzi ha detto: guarda, io l'unica volta che ho chiesto di rileggere un'intervista è stata quando me l'ha fatta Leo Turrini, perché non mi fidavo. Quindi vedi un po' tu in che mani sei cascato. Ti lascio. Per la verità, ero io che non mi fidavo delle risposte di Zorro. Perché avevi bisogno del decoder. Proprio, ecco, precisare. Cos'è una medaglia d'oro? Ascolta. Sì, la medaglia d'oro appoggiata sul tavolo. Sono un po' così frastornato. Leo Turrini, aiutami tu. Guarda, Guarda, Elia la sta sventolando davanti al mio naso, la medaglia d'oro di Rio de Janeiro. Lo immagino, guarda, l'abbiamo detto nei giorni scorsi, tutte le medaglie d'oro sono bellissime, non bisogna mai fare delle graduatorie perché diventa anche antipatico, però a livello emotivo sicuramente quella di Elia nell'Omnium, così come quella di Gregorio Paltrinieri nel nuoto,

ero in testa di 16 punti, che possono sembrare tanti ma non lo erano, perché alle spalle avevo un atleta come Cavendish che è fortissimo. E quindi al mondiale qualche mese fa stessa situazione, ho corso per essere guardingo e ho perso tutto praticamente. Quindi siamo decisi proprio di fare punti, e il fatto di fare punti voleva dire portarmi in avanti. È ovvio che essendo il leader della corsa dovevo rispondere anche degli attacchi, quindi diciamo che è stata una gestione di energie, ma partendo con l'idea che attaccare è meglio che difendersi, e che quindi era meglio attaccare via, quindi allargare un po' ovvio che la caduta ci ha fatto avvicinare gli avversari, perché ho avuto bisogno di un 20 giri per un attimo capire in che mondo ero, però quando si sono avvicinati tanto ho avuto la reazione, che forse in me è scattata quella cosa che non mi voleva far perdere ancora, ecco. Quindi ho fatto due volate consecutive, 5-5-10 punti, e il margine è tornato largo. Quindi poi passando gli ultimi 10 giri anche godendomi un po' in passerella il fatto di realizzare di essere campione olimpico. Come Antonio Rossi l'altro giorno ci ha detto, negli ultimi 500 metri prima della medaglia, no, 200 metri prima della medaglia d'oro già pensavo alla telecronaca di Galeazzi. Oddio. Tu pensavi alle parole, no, che stava scrivendo Turrini invece. No. Non proprio, però cercavo lo sguardo del CT, cercavo i miei familiari che erano in tribuna, e volevo che finissero in fretta quei 5-6 giri che mancavano per poi comunque esultare e quindi vivere tutte le emozioni del post gara, tutte le emozioni del caso. Leo, mentre lo guardavi correre, cosa pensavi? Beh, pensavo alla mia infanzia, quando Elia non era ancora nato, il ciclismo su pista era popolarissimo, c'erano Beghetto, Bianchetto, Pettenella, Damiano, c'era anche uno che si chiamava come me, Giordano Turrini, che vinse un mondiale nel tandem con Borghetti, ma mai il titolo individuale della velocità. Era, se volete, l'Italia dei nonni, dei genitori, Maspes, Gagliardoni, insomma. Io penso che Elia abbia fatto qualche cosa che ha riportato in auge quella che era una grandissima tradizione del nostro sport, non solo del ciclismo, la pista. Però detto questo, volevo chiedergli, siccome ho letto che adesso insomma vuole dedicarsi di più alla strada, no? Elia saprà che il mondiale dell'anno prossimo dei professionisti è tutto piatto, perché si va in Qatar. Mondiale fra qualche mese? È il campionato del mondo che c'è l'anno prossimo. No, quest'anno, qualche mese manca. Ma questo adesso lo vai a fare o no? Ecco, mancano due mesi, mancano due mesi e sicuro è il prossimo primo obiettivo. Ho già parlato, ho chiesto al CT di Cassani di parlarne solo dopo l'Omnium Olimpico, perché proprio volevo non pensare ad altro che all'Omnium. E certo, mi devo preparare, ovvio che devo passare da una preparazione della pista a quella della strada, ma rientro a casa stasera e da domani il pensiero è sul prossimo obiettivo. Sì, che dormi un pochino. Dormo, sì. Perché mi vedi male? No, però ho letto che non ho letto prima, non dormo da 20 ore. No, ti vedo fresco come una rosa. Sarà l'adrenalina ancora, però. È ancora l'adrenalina. No, nelle ultime notti ho dormito 2/3 ore a notte. Quindi era il classico caso che non volevo addormentarmi. Quando mi addormentavo, vedo l'ora di svegliarmi. Quindi sono emozioni che si provano. Ogni volta che magari penso a qualcosa, dovrei riposare, dovrei allenarmi, dico ok, magari è la prima e l'unica volta che vinco una medaglia olimpica, facciamo quindi quello che mi va di fare e via. Come diceva Dennis Rodman, c'è sempre tempo per dormire, meglio stare svegli e godersi ogni momento. Elisa, buonasera. Sì. Quindi hai capito, Leo Turrini, mondiale in Qatar, sono ci siamo. Per celebrare il titolo iridato, perché credo che almeno nello stesso anno mai uno abbia vinto nel ciclismo Olimpiade Mondiale. Vabbè, alla radio si può fare, così Elia può fare tutti gli scongiuri che vuole, punto. e io anche. Elisa? Sì. Buonasera a tutti, grazie mille Liam, grazie a tutti e a tutti gli atleti per le bellissime emozioni che ci avete fatto vivere. Medaglia sì, medaglia no, non ha importanza per me. Vero. È lo spirito olimpico che piace a tutti, sicuramente anche comunque guardando le medaglie credo che sia stata una grande Italia fino ad ora, e sì, ci sono anche delle medaglie ancora in arrivo prossimamente, sì, da beach volley, dal, speriamo, la pallavolo, la pallanuoto, Grazie mille di tutto, a tutti i nostri ragazzi, a tutti i nostri atleti, per tutte le emozioni che abbiamo vissuto. Volevo chiederti una domanda, chiederti una cosa, Elia. Certo. Io sono ciclista, ma su strada, per cui quando vado in giro, a parte hai perfettamente ragione, la pericolosità, le buche, è vero, è verissimo. Vivo in Brianza, per cui scelgo tutti i percorsi alternativi. Però mentre pedalo posso vedere molte cose. Chi si allena in pista non ha la possibilità di vedere cose, vede soltanto la pista e il chiuso di un velodromo. Volevo chiederti come ti prepari mentalmente al continuo girare nello stesso ambiente, un po' come Fede e Gregorio che si allenano in piscina e sempre avanti e indietro guardando il soffitto, stesso ambiente. C'è sicuramente un esercizio di tipo mentale, yoga, presenza mentale, come ti prepari a, secondo me, alla monotonia dello stesso ambiente, del continuo girare migliaia di volte? Grazie ancora Elia, figurati. A tutti voi, figurati. Un abbraccio. Grazie mille. Grazie, no, sicuramente è una bella domanda, nel senso anch'io del ciclismo vivo i posti dove pedalo, quindi sicuramente non ho mai visto dei posti così belli in tutto il mondo ed è grazie al ciclismo se li ho visti, e a pedalare sulle strade normali, non sulla pista, però penso che... Tirando fuori, magari non è paragonabile sicuramente al nuoto, perché parlavo con Paltrinieri nel viaggio e mi ha detto quanto si allenano, e se noi ciclisti ci alleniamo, lui veramente è incredibile, e per lui credo che ci possa essere questo problema. Per quanto riguarda la pista, il fatto di alternare la strada alla pista a me distoglie da questo problema, e quando salgo in pista le mie sessioni sono di 1-2 ore ed è ancora un anche nel periodo olimpico, dove sono stato in pista 2 volte al giorno, la mattina e il pomeriggio, così non ho riscontrato questo problema, forse perché comunque non è una monotonia di allenamento, faccio diversi tipi di allenamento, le partenze da fermo, il dietro motori, le cuffiette della radio sempre su, tutte ci sono cose altre diverse, cose per bravo, sì, non mi è mai pesata questa cosa, non mi è mai pesata. C'è qualcuno che mi scrive se ti ha chiamato From, se ti ha fatto i complimenti e se gli darai una mano al prossimo tour. Tutti i compagni del Team Sky mi hanno scritto, anche se la maggior parte sono inglesi e dietro di me è finito un inglese, quindi diciamo che ha prevalso il senso di compagno di squadra, e tutti, anche Frumi, mi ha risposto, e sicuramente dopo 3 Tour de France, visto che il suo obiettivo dichiarato sono 5, al Team Sky saremo ancora tutti per lui anche al prossimo Tour de France. Perché Wiggins ti ha mandato un messaggio molto bello. Wiggins è una persona particolare, ma che ha un buon rapporto, veramente un buonissimo rapporto con lui, e soprattutto ora che ci troviamo tra i velodromi, andiamo veramente d'accordo, e dopo i miei complimenti a lui, dopo l'inseguimento a squadre che ha raggiunto il suo 5° oro olimpico, diciamo che è il mio idolo olimpico, quindi nel momento in cui gli ho detto ora ho capito cosa si prova, lui mi ha detto insomma che di godermela, perché campioni del mondo o qualsiasi altro titolo si può avere per un anno, ma campione olimpico lo sarò per sempre, quindi sicuramente è stato un bel messaggio che rende l'idea di quanto è grande il risultato. Lo rende veramente. Bravo Bradley Wiggins. State qui ragazzi, Leo Turrini anche tu, Elia Viviani qui con me. Sì. Borsa, informazioni mercati finanziari, torniamo tra pochissimo. Tutti convocati. I love this game. Convocati alle Olimpiadi. E meglio di così è impossibile. Elia Viviani, medaglia d'oro a Rio, qui con noi in studio ancora per una decina di minuti. A proposito, voglio rispondere a questo messaggio WhatsApp. Ciao Elia, volevo congratularmi con te, da veronese sono molto orgoglioso. L'ultima cosa, io abito a Vallese, volevo sapere quando torni. Immagino che saprai che tutto il paese ti sta aspettando, così magari mi potrò congratulare di persona. Ora 10 minuti di altra chiacchiera e poi torni a casa. Esatto, quando mi libero da qui scappiamo a casa a Verona, a Vallese, e qualche soffiata è arrivata. Ci sarà, credo, un bel party già stasera, quindi paese in festa. Paese e in possono festa. Partecipare tutti, ovviamente. Io vivo a Piove di Sacco, in provincia di Padova, lavoro a Vallese. Ho acceso la TV e non sono riuscito a staccarmi fino alla sicurezza dell'oro per te e mio figlio con me. Complimenti, bravissimo. Post scriptum, sono convinto che la caduta non è stata così casuale. Sarò cattivo, ma gli avversari per me ci hanno provato a fermarti, ma tu non hai mollato. Sono state un po' di polemiche su quella caduta. Devo dire che io ho avuto modo di rivedere la caduta solo qualche ora dopo. Fino a lì non avevo proprio neanche capito cos'era successo. Mi sono ritrovato una bici davanti, sono caduto. Infatti a tutte le polemiche ho smorzato, nel senso che con una medaglia al collo è difficile, cioè, non mi veniva proprio neanche il pensiero di provare a pensare a un qualcosa di male. Quindi ho visto il video, c'è stata una deviazione che comunque non si capisce perché è stata fatta, quindi resta il dubbio perché siamo su un velodromo a 50 km orari con una bici scatto fisso, un cambio di direzione, il coreano che guardava giù anche lui e non lo so, però il fatto che nessuno mi avrebbe fermato, solo una brutta, cioè se fosse stata peggiore la caduta a livello di condizioni successive, quindi rotture o cosa, mi avrebbero obbligato a fermarmi, però ho avuto subito una reazione nervosa, cattiva, ho fatto un gesto di stizza e poi sono ripartito proprio ritrovando la calma, ed è stata l'arma migliore perché alla fine, come ho detto, guardare il tabellone nel momento in cui sono risalito, dove vedevo il mio nome in testa tutto, e ripensando anche a quello che avevo fatto prima di quella gara, che ce ne erano state altre 5, non volevo finisse male, ecco. Quindi volevi finisse lì, certo. Leo Turrini. Ma io volevo citare un grande esperto di ciclismo su pista, si chiamava Giulio Andreotti, e diceva: a pensar male si fa peccato, ma certe volte ci si azzecca. Quindi io non so, a proposito di questo incidente, Elia è stato molto diplomatico, poi credo che lui sia l'unico in grado di valutare con cognizione di causa la dinamica del fatto, chiamiamolo così, o del misfatto. Però insomma, a volte appunto si è portati anche a sospettare che qualcuno tenti di giocare sporco. Poi quando finisce tutto bene, insomma, ci si dimentica di questo, no? Se finisce bene, sì. Se finisce bene. Altrimenti no. No, io volevo ricitare invece Marino Bartoletti dell'altro giorno, quando parlavamo di Elia insieme. Lui notava due cose. La prima cosa che ha sottolineato sono state le lacrime di Martinello nel raccontare la tua vittoria, che lo hanno molto colpito tutti noi, sappiamo che è stato il tuo predecessore con quella medaglia al collo. La seconda, Marini, invece, considerazione più tecnica, ha sottolineato la permeabilità che c'è adesso tra il ciclismo su pista e quello su strada, perché dietro a te è arrivato Cavendish e nessuno ha vinto più tappe al Tour de France di Cavendish se non Eddy Merckx. Wiggins lo conosciamo, tu fai parte del Team Sky, eccetera. Forse è la prima volta che c'è questo continuo passaggio dalla strada nell'era moderna, penso proprio di sì, nel senso che è la prima occasione in cui eravamo in tanti stradisti importanti a gareggiare nell'Omnium in pista, perché ero io, era Cavendish, Gaviria è un fortissimo talento della Quickstep, c'era Klug che è un altro atleta World Tour, c'era Hansen, il campione olimpico di Londra 2012 che ha corso 2 anni nel Team Cannondale. C'era tanti professionisti in quei 18 partecipanti dell'Omnium, e come avete voi, l'esempio lampante è stato Cavendish, che ha vinto 4 tappe al Tour ed è stato l'avversario più duro per me. Quindi diciamo che io ho sempre alternato queste due attività e mi sono sempre riuscite bene. Ho vinto al momento 40 gare su strada, quindi penso di qualche gara averla vinta, con cui una tappa anche al Giro d'Italia, quindi è un'attività che ho sempre alternato bene. È ovvio che ho dovuto specializzarmi un po' di più per questa Olimpiade, ma proprio perché non volevo sbagliare ancora, quindi magari la paura anche del passato mi ha portato a esagerare nel preparare questa Olimpiade proprio nei minimi particolari e a mollare un po' la strada. Però sono determinatissimo a continuare a vincere su strada e a portare in alto la pista italiana. Che perché 27 anni, Leo, Viviane è giovane come l'acqua. Cosa gli consiglieresti tu? Ma io penso che un campione olimpico non abbia bisogno di consigli da dove lo vedresti? Ormai rimba. Guarda, io penso una cosa, poi saprà lui cosa è meglio, ma io a Tokyo a difendere questo titolo ci andrei comunque tra 4 anni, perché credo L'idea che ho in testa è quella di comunque, in qualche intervista è uscito che mollo la pista, ma il mio mollare la pista intende che nella mia routine ci sarà sempre la pista, proprio per i motivi che abbiamo sottolineato adesso, che Cavendish è dovuto tornare in pista per tornare il numero uno al mondo, per trovare la brillantezza di vincere le volate, quindi non mollerò mai la pista sotto quanto riguarda l'aspetto di preparazione e quindi di appoggio alla strada. Ovvio che tirerò un po' i remi in barca per quanto riguarda tutte le trasferte invernali, i prossimi mondiali molto probabilmente, anche se non ho ancora mai vinto un mondiale, però tornerò e come mi prendo i prossimi 2 anni per coronare ancora qualche sogno su strada, perché 27 anni è l'età, penso, come è stata l'età giusta per vincere quest'oro, nei prossimi 2 anni voglio proprio togliermi quelle soddisfazioni su strada che spero e farò del mio meglio per raccogliere, insomma, e quindi il Mondiale del Qatar è uno degli obiettivi, la Milano-Sanremo è un sogno di ogni sprinter, quindi anche il mio. Tornare al Giro d'Italia dopo il ritiro di quest'anno è una delle priorità dell'anno prossimo, quindi voglio raggiungere un po' di risultati su strada, tenendo la pista come appoggio e quindi dando priorità alla strada, ma la qualificazione olimpica per Tokyo comincia proprio 2 anni prima e quindi sarebbe a scadenza di 2 anni che stiamo parlando, quindi penso che abbiamo un bel gruppo, che i ragazzi dietro di me che avete visto gareggiare nel quartetto saranno pronti anche per una medaglia a Tokyo con un bel progetto, e quindi penso che ok difendere il mio titolo nell'Omnium, che comunque è una specialità che prende molte energie, ma il mio sogno al momento è portare quel quartetto sul podio di un Olimpiade. Mi sembra che abbia le idee chiare, ragazzo, Durrini. Ma io penso che Elia sia pronto, potremmo anche farlo dopo Tokyo, commissario tecnico della pista, se ne ha voglia. Perché non si deve sentire Cittivilla, non si deve sentire Cittivilla. No, vabbè, Villa è un amico e tutto, Villa ma gli parla lui, non ti preoccupare. Ah, ok, ok. Dico, una volta concesso il bis a Tokyo, hai vinto anche col quartetto dell'inseguimento, e avendo nel frattempo colto quello che c'è da cogliere su strada, Elia è un nome da profeta, potrebbe diventare veramente il profeta della definitiva consacrazione del ciclismo italiano su pista. Angelo da Bergamo, poi salutiamo Elia Viviani e lo lasciamo andare alla festa che lo sta aspettando. Angelo, buonasera, intanto complimenti a questo ragazzo che ci ha fatto vivere un'emozione grandissima l'altra sera. Volevo chiedergli quando è accaduto, che cosa gli è passato in quel momento lì per la testa. Poi condivido anch'io il pensiero di Leo Turrini, del ciclista Giulio Andreotti, perché è vero quello che ha detto. E niente, tanti complimenti a lui, e volevo sapere se non è possibile portare nelle scuole questo. Sicuramente sulle scuole secondo me si potrebbe portare un qualche corso, non può essere una sostituzione all'educazione fisica, ma un qualche ora di educazione fisica al posto di farla a scuola, magari nel velodromo a girare un'oretta in bicicletta, sicuramente potrebbe essere un metodo per far provare quello che dicevo prima, far provare uno sport ai ragazzini che possono innamorarsi di questo. Per quanto riguarda invece la caduta, come ho detto, ho avuto anche un secondo per pensare prima dell'impatto come fare a cadere, poi in quei casi viene tutto automatico, quindi avevo la bici che mi rotolava sopra, così nel momento in cui mi sono fermato era un gesto di rabbia, che mi sa che la ruota non gira molto più bene, quella dell'avversario della bici che avevo davanti. E poi, come ho detto, il primo pensiero è stato guardare, fare i movimenti basilari, quindi di gambe, braccia, clavicole, cose, per vedere se era tutto ok e cercare la mia bicicletta. Trovata la mia bicicletta, ho visto che non era ok, ho buttato lo sguardo sul meccanico, e quando ho visto il meccanico arrivare ho trovato anche quell'attimo di calma per pensare e dire ok, ho 5 giri per risalire su in pista e difendere il mio titolo, prendiamocene 2 un attimo per respirare e poi andiamo. E quindi diciamo è stato tutto veramente così breve, e la voglia di risalire in pista era quella che prevaleva su tutto. Senti, un'ultima cosa, messaggio di Renzi: bravo Ciccio, hai vinto la medaglia d'oro. Non l'ho guardato su Twitter, però personale no, non ancora. mi ha fatto piacere ricevere i complimenti e anche come è stato detto anche qui per radio e tutto, è stato proprio quello che mi fa piacere di aver colpito tantissima gente. Ma così è. E aver emozionato tutti, quello è sicuramente un valore aggiunto a una vittoria bellissima che mi porto dentro sicuramente. E poi tutti i tweet che ci sono stati dei miei colleghi, dei tifosi da casa, ho visto un tweet bello e anche che vede che ha raggiunto con l'emozione anche lui di Massimo Moratti, che non pensavo comunque si potessero comunque incollare alla TV e tifare Elia Viviani per quell'omnium, insomma. Quindi tu sei juventino cose... comunque. Io sono juventino. Tu sei juventino. Turrini è interista. Un giorno facciamo il derby. Leo Turrini. Turrini, invitiamo Moratti. Invitiamo Moratti, un mio caro amico, per cui possiamo portarlo all'Omnium di Tokyo tranquillamente. Ah, allora, e poi guarda, di fronte a quello che tu hai fatto, e questo è il bello dell'Olimpiade, anche le divisioni calcistiche eterne nel nostro paese scompaiono. Cioè, la cosa più bella dell'Olimpiade, io lo dico sempre, è che mentre il calcio ci lascia sempre un po', no, la divisione, anche quando c'è la nazionale, perché ci sono sempre gli strascichi, no, il campionato, questo e quell'altro, l'Olimpiade è una cosa che tutti facevamo il tifo per Elia Viviani, noi che eravamo a Rio, quelli che erano a casa, tutti il tifo per Paltrinieri, tutti il tifo domani per le ragazze della pallanuoto femminile, i ragazzi del volley, e questo è un patrimonio di emozioni che è bene tutelare e che è merito esclusivo di voi atleti. E il bello di questo, sai cos'è? Che anche là, tra atleti, è la stessa identica cosa. Quindi l'atleta italiano va a cercare la gara, per dire, la sera che ha vinto Paltrinieri ero incollato davanti alla TV, e quando ho visto che se n'è andato dopo praticamente solo 4 vasche ho detto: ah, ok, bene, è quasi fatta. E quindi abbiamo cominciato a tifare Detti, che cercava di conquistare il bronzo. Beh, che poi ce l'ha fatta, però quindi... lì anche tu hai fatto così nell'Omnium, insomma eri andato via, insomma, no, noi eravamo abbastanza tranquilli, hai capito? Bene. Grazie Elia. Grazie mille a voi, grazie mille a voi. Un saluto a tutti. Lì. Aspetta che saluto Elia Viviani, intanto traffico, torniamo subito. Ciao a tutti. 35 gradi oggi, ma i leoni non mollano, ragazzi. Tutti convocati. Tutti convocati alle Olimpiadi. Dunque, maestro Leo Turrini, gran bel corridore e gran bel personaggio Viviani. Sì, no, ma io avevo capito, sai, anche prima delle Olimpiadi, vedendo sue interviste televisive o leggendo di lui, che si trattava, insomma, di un ragazzo di qualità umane molto molto belle. E poi avevo in mente la delusione di Londra. Mm-hmm. Giustamente adesso è cancellata, lui era prima dell'ultima prova, no? E poi non salì nemmeno sul podio, è l'ultimo mondiale, si era ripetuta la stessa cosa in pista, stava per conquistare la maglia iridata nell'Omnium e l'aveva persa all'ultimo tuffo, era come una maledizione, sai, quelle cose, quei tabù, tipo la nazionale italiana maschile di pallavolo, no? Che gioca sempre per le medaglie. E tra le 4 semifinaliste di quest'anno è l'unica che non ha mai vinto l'Olimpiade, perché gli americani l'hanno vinta 3 volte, i brasiliani l'hanno vinta e l'hanno vinta anche i russi a Londra. E noi siamo gli unici al party, chiamiamolo così, delle semifinali, che ci siamo messi al collo del metallo, ma mai quello che conta di più. Aspetta, Leo, abbiamo un'altra sorpresa, aspetta. Ti vorrei citare un amico, così gli facciamo gli auguri, che è Mogol, e io penso che per le ragazze del pallanuoto, come per Nicolai e Lupo, sia perfetto il verso: per averti farei di tutto. Da per averti, di Celentano, no? Pensando alla medaglia d'oro. Farei di tutto. facciamo insieme, io e te, un regalo a Gianni Mogol, no? Glielo facciamo, gli facciamo fare gli auguri da Yuri Checchi, portabandiera olimpico, uno dei più grandi atleti della nostra storia. Cosa Yuri. Dici? Poi glieli mandiamo. Gli auguri a Mogol li faccio con tanto piacere, perché insomma è un personaggio mitico, no? Della musica, della canzone italiana, e quindi assolutamente tanti auguri. Dunque, Leo, abbiamo recapitato il regalo e abbiamo in linea Gianni Mogol. Grazie. Giulio, ci sono. Giulio, allora, intanto pronto. Io ti dico che hai 80 anni solo per l'anagrafe, perché ne dimostri 40. Grazie. Vorrei che ti fosse chiaro. Per me è un momento bellissimo che in radio mi abbiano messo in contatto con te. E voglio dire una cosa, l'altra sera sono stato a cena a Ipanema, al ristorante a Garota do Ipanema, no? Sì. Dove sedevano Vinicius de Moraes e Tom Jobim ai tempi e composero la famosa canzone, no? A Garota do Ipanema. Ecco, qui in Brasile hanno un rispetto per la cultura popolare che tu in Italia incarni straordinariamente da decenni, che forse nel nostro paese è mancato. E quindi ti chiedo scusa io, anche a nome di tutti i connazionali. Grazie per tutto quello che hai scritto e che scriverai, e per gli 80 grazie. Anni che sono 40. Grazie molte. Sulla cultura popolare, sì, è vero, ha conosciuto dei momenti molto alti nel nostro paese. Adesso purtroppo sta vivendo un momento di recessione, anzi, da diversi anni. Momento di recessione, ma non perché mancano gli autori, i compositori, è perché la promozione fa anche la produzione, questa è la verità. Senti, ma Giulio, vai Leo, vai. No, volevo chiedergli se sta guardando le Olimpiadi, perché Giulio è anche uno sportivo praticato, ha fondato la Nazionale Cantanti, cioè sì, è un atleta. Questi giorni, in questo momento sono in macchina, perché stavo seguendo un mio amico con la macchina, e quindi non posso fermarmi se non lo perdo. Comunque, ho visto le Olimpiadi, sì, io perché parteggio sempre per l'Italia. Da poeta, lo sport dà tante emozioni che potrebbero certo, traslare in musica. Secondo me è poesia fisica, la poesia fisica, lo sport. Lasciamo andare Gianni Mogol, che è impegnato. Leo, salutalo tu. Giulio, ma sai, questo gente giovane, Giulio, devi capire che lui si confonde, perché dice Mogol, Morandi, hai capito, insomma, perché poi tu hai scritto pezzi meravigliosi per tutti. No, siccome domani c'è la grandissima sfida doppia Italia e Stati Uniti, no? Nella pallanuoto femminile e nella pallanuoto maschile, c'è un brano di Giulio che io conosco, che scrisse per i New Trolls, che si chiama America OK. Lo ricordi, sì. Giulio? È vero, bravo, sei proprio un biografo, grazie. Bravo, che se la regia lo trova e ce lo sparasse, ci carichiamo per questa doppia sfida. Ma lo trova senz'altro, andare su internet, lo trovate subito. Adesso lo troviamo, lo cerchiamo. Grazie davvero, tanti auguri ancora. Grazie a voi, tante cose belle. Ciao Giulio, ciao, un abbraccio, arrivederci. Numero uno assoluto, no? Mogol, beh, insomma, Turrelli. Diciamo che Mogol, se ci fosse la medaglia d'oro per gli autori di canzoni, ne avrebbe più di Phelps. Sul gradino, ecco, bravo, più volte di Phelps. No, ma guarda, io ho avuto la fortuna di incontrarlo, di conoscerlo. Al di là del suo talento artistico, è veramente una persona stupenda. Poi lui ha un amore per lo sport. Pensa che lui riuscì persino a portare a giocare a pallone Lucio Battisti, che giocò la prima partita della Nazionale Cantanti all'Arena di Milano, e una volta ce la fece a convincere a scendere in campo anche Lucio Dalla. Ma va, perché questo non lo sapevo. Sì, giocare una partita a Pavullo. Ci sarebbe anche un aneddoto divertentissimo che riguarda un ex calciatore cileno, Jorge Toro. Se mi dai 30 secondi te lo racconto. Dimmi, come no? Allora, la Nazionale Cantanti, capitanata a Mogol, sale nel Frignano Modenese a giocare contro una selezione di vecchie glorie, no? Ci fa un bonario accordo prima della partita che si deve chiudere in pareggio, no? Tutti contenti, poi si va a tavola. Solo che questo Jorge Toro, idolo del Cile ai mondiali del 62, poi venuto a giocare in Italia col Modena, il Verona, la Sampdoria, eccetera, non era stato messo al corrente della cosa. Calciava benissimo le punizioni. Ogni punizione Toro faceva gol, no? e i cantanti si dovevano scannare per recuperare. All'ultimo minuto, sul 2-2, l'arbitro dà una punizione alla selezione Vecchie Glorie e Toro parte con la palla sotto il braccio, e non ci sarebbe più stato tempo dopo il suo gol, no, per riequilibrare le sorti dell'incontro, come dite voi cronisti sportivi. Allora arrivò un ex calciatore dell'Inter, che purtroppo non c'è più, Giorgio Mariani, che rubò la palla a Toro e disse: no, stavolta tiro io. Tirò verso la bandieria del calcio d'angolo e finalmente... festa per tutti. Insomma, si ebbe modo di andare tutti a tavola. No, comunque mi hai fatto un regalo chiamare Giulio, perché è un grande italiano, davvero. E in un'Olimpiade di grandi italiane e grandi italiane la sua voce ci stava benissimo. Grazie. Te ne faccio un altro di regalo, questo qui, senti. Cantando Singing in the Rain. Ma che colore hanno i miti? Vivi con gusto se li hai. America, ok? Arance della California. Ce la facciamo, Leo Turrini, a battere gli americani nella pallavolo? E allora, è molto dura, perché loro sono più abituati di noi a giocare questo tipo di partite. Tu dirai: ma come, che noi siamo sempre in semifinale? Sto parlando di questa nazionale azzurra, perché la squadra di Blengini è molto nuova. Juan Torregna, il cubano, è entrato in gruppo da non molto tempo. Giannelli, che è un fenomeno assoluto, ha soltanto 20 anni. E domani è una di quelle sfide che il pallone scoppa. Gli americani hanno vinto l'ultima Coppa del Mondo e sono entrati in forma proprio adesso, perché in girone li abbiamo asfaltati, ma non conta, cioè tu devi essere al top quando si arriva al momento decisivo. Quindi sarà una battaglia durissima tra due squadre estremamente competitive. L'altra semifinale Brasile-Russia, cosa ti devo dire? America, ok, cambiamo il finale in America KO, la canzone di Mogol per i New Trolls, e speriamo bene. Intanto ci sarà anche Italia-Brasile, come ricordiamo, sulla sabbia, quindi c'è questo doppio appuntamento. Io sono qui, sono venuto a assaggiare la spiaggia di Copacabana. Sei venuto a provare il campo, sei andato a provare il campo. Parecchie ore, ma ho provato il campo. Guarda, Lupo e Nicolai, onestamente, a livello tecnico partono battuti, perché questi due Alisson Schmidt sono i campioni del mondo, primi del ranking internazionale. Però è come certe partite nel calcio, abbiamo evocato Brasile-Italia dell'82, se vuoi un ricordo più facile, più recente, Francia-Portogallo con Cristiano Ronaldo rotto dopo pochi minuti, no? I nostri sicuramente ci provano, ecco, questo ne sono convinto, e sono già stati fantastici arrivare alla finalissima. Grazie Leo. Senti, ci sentiamo, ovviamente ci sentiamo domani, tra l'altro. Sì, se tu lavori, sì. Ma io lavoro sempre. Io lavoro sempre. No, anche perché la partita comincia proprio alle 18, Italia e Stati Uniti. Sono preparato su questo. Quindi la vivremo insieme. Tu sarai lì, Dario Ricci sarà lì e io sarò qui a friggere come al solito. Perché c'è chi è fortunato e chi lo è di meno, mio caro. Sì, ho capito. Mettiamola così. Buon lavoro, Carlo. Ciao, Leo Turrini. Grazie. Ti abbraccio. Allora, adesso ci fermiamo per il giornale radio, torniamo poi per riparlare di pallavolo, per parlare dei giudici malandrini della box, per parlare delle Olimpiadi dell'amore di nuovo, perché ci sono un sacco di matrimoni in vista ed è un argomento che mi appassiona molto, per parlare di football anche, perché c'è il Brasile che aspetta la vendettissima contro la Germania nella finale per l'oro del torneo di calcio. E per parlare di tutto quello che volete, basta chiamare l'800 24 00 24, questo è il numero verde. E ricordatevi, qui l'importante non è partecipare, è vincere. Atleti, a voi. Tutti convocati. Run, boy, run, run, boy, run. Attenzione, attenzione, fermi tutti, uscite immediatamente dall'acqua, mollate tutto, pinne, Braccioli, Salvagenti, accendete Radio 24 e ascoltate i Fuori Posto. Com'era Fili, li ho convinti? Sì, per me andava bene un bel, ma c'è solo un piccolo problema. Non hai spiegato perché le persone dovrebbero ascoltare sto programma. Ma di che parla? Ah sì sì, è vero, c'è ragione Filippo. Aspetta, aspetta. Cari bagnanti, tutti voi almeno una volta nella vita vi siete sentiti fuori posto e noi parleremo di quelli che sono alla ricerca di un posto di lavoro nel cuore di qualcuno, quelli che un posto prima ce l'avevano e ora non ce l'hanno più. E parleremo anche di quelli che invece hanno scelto di stare nel posto sbagliato. E chi lo conduce? Come chi lo conduce? Filippo, io e te. I Fuori Posto con Umberto Alezio e Filippo Roma. Da lunedì a venerdì alle 10 su Radio 24. Oh, aspetta, aspetta! Lasciateci i vostri messaggi a ifuoriposto@radio24.it o allo 0246524182 o via sms al 349-2386666. Anna, lo senti questo clima estivo? Il sole, il mare, la montagna, le città d'arte. Ma allora torna Globetrotter 24? Sì, Valeria, torniamo. E in una versione tutta rinnovata, con ospiti fissi e destinazioni interessanti e, speriamo, poco scontate. Non vuoi anticiparmi nient'altro? Posso solo dirti che i nostri compagni di viaggio sono Salvatore Carrubba e Davide Paolini. Allora dimmi almeno a che ora è l'appuntamento. Ogni sabato e ogni domenica alle 10.30, ovviamente, su Radio 24. Tutti convocati alle Olimpiadi. Allora, mi è venuto in mente negli ultimi 10 minuti, però dovevo farlo, mi sentivo in dovere di farlo. Davide Cassani, CT del ciclismo, ciao. Ciao. Senti, io devo fare la spia. Voglio fare la spia. Tu non dirlo a nessuno, ma segreto tra me e te. Segreto tra me e te. ecco perché no, c'era qui Elia Viviani con me in studio fino a un quarto d'ora fa con la sua bella medaglia d'oro. E appena io e Turrini abbiamo cominciato a parlare dei mondiali in Qatar, che Turrini vabbè ormai bollito, ha detto l'anno prossimo, e lì ha detto aspetta, sono tra qualche mese. Ecco, io ce l'avevo davanti e gli si sono accesi gli occhi come due lampadine. E poi ha detto queste cose. Mancano due mesi e sicuro è il prossimo primo obiettivo. Ho già parlato, ho chiesto al CT di Cassani di parlarne solo dopo l'Omnium Olimpico, perché proprio volevo non pensare ad altro che all'Omnium. E certo, mi devo preparare, ovvio che devo passare da una preparazione della pista a quella della strada, ma rientro a casa stasera e da domani il pensiero è sul prossimo obiettivo. Sì, che dormi un pochino. Dormo, sì. Hai sentito Davide? Ah, ho sentito. Cosa facciamo? Guarda, devo farti una confidenza. Sì, con Elia ci eravamo dati appuntamento per parlarne subito dopo l'Omnium. E ti posso dire che ne abbiamo parlato proprio mentre aspettava di fare l'antidoping, no? quindi abbiamo parlato, gli ho detto le mie idee, le mie intenzioni. Dai, Elia è stato uno dei miei azzurri anche all'ultimo mondiale, quello di Richmond. Certo. E tra l'altro ancora prima l'avevo portato ai primi giochi europei, quindi c'è sempre stata massima fiducia, perché tra l'altro lì è un corridore che, come ha dimostrato, è forte sia su pista che su strada. E quindi è un corridore che potrebbe sicuramente essere uno dei miei uomini per i campionati del mondo. Naturalmente adesso lo vedremo al Tour Britain, deve comunque, come ha detto lui, deve comunque adesso scaricare un attimo e pensare ai mondiali. Ma sai, di questo non ne sono assolutamente preoccupato, perché lui è uno di quelli che corre 12 mesi all'anno, sì, è uno che ha la passione nel sangue, no? Ha il ciclismo nel cuore, quindi sa benissimo che potrebbe essere una delle mie punte ai mondiali del Qatar, anche perché appunto anche a Elia ho spiegato quali sono le mie intenzioni. In Italia abbiamo alcuni buoni calcisti e quindi uno di questi è Viviani. Infatti salutandolo gli ho detto: ma adesso ti fermi un po'. Lui mi ha detto sì, una settimana e poi ricomincio a calda. Esatto. Quindi vabbè, confidenza per confidenza, io il mio dovere l'ho fatto, CT. No, ma guarda, ne avevamo già parlato, quindi sarà anche quella una bella battaglia. Sai, di velocisti forti nel mondo ce ne sono tanti, no? uh-huh. e quindi partiamo non favoriti, perché Cavendish, Kittel, Greipel, Buoni, ce ne sono tanti, però anche noi andiamo in Qatar non per perdere, ma cercare di ottenere il massimo, come abbiamo sempre fatto. Certo, grazie Davide, a presto, ti aspetto. A presto. A presto, ciao Davide Cassani. Ah, bene. Sarò anche uno spione, ma io una telefonata anche ti dovevo farla, non so come la pensate voi. 800 24 00 24 numero verde per parlare di Olimpiadi, di tutto quello che volete fino alle 20. Michele, buonasera. Sì, buonasera, salve. Salve. Due cose, intanto è piacevolissimo sentire Leo Turrini, devo dire che veramente mi collego quasi esclusivamente per lui, perché mi sembra di sentire il Federico Buffa radiofonico e ogni aneddoto è bellissimo da ascoltare. E certo, segue le Olimpiadi dall'edizione della prima edizione, quella di St. Louis, The Spirit of St. Louis, quindi qualcuno l'ha vista. No, questi personaggi pieni di storia sono, secondo noi ci fanno molto bene, perché altrimenti parliamo sempre solo di banalità che sentiamo nei bar, invece questi personaggi danno sempre quel tocco in più allo sport e anche alla cultura, devo dire. Sì, certamente. No, volevo tirare fuori un argomento che ho sta imperversando un attimo su Facebook, è delle due ragazze dei 5.000 metri che si sono date una mano dopo essere cadute e ho letto sono state messe alla finale per il bellissimo gesto di sportività. E naturalmente leggo i commenti e trovo sempre noi italiani addirittura indignati per questo, perché uno addirittura ha scritto adesso dovremmo stare attenti perché qualcuno potrebbe fare apposta a cadere e farsi male per poi essere messo alla finale. Allora io dico, cioè, tra Federica e Pellegrini e tra questi commenti io dico veramente non stiamo migliorando mai Michele, noi come Michele, cultura. Purtroppo non possiamo farci nulla, anche a me certe cose fanno profondamente arrabbiare. Come ad esempio la storia sui premi, come ad esempio perché ad esempio il ragazzo che c'era qui che si accarezzava la medaglia d'oro, che ha sofferto come un cane 4 anni fa e che è rimasto fuori dal podio dopo che era primo in classifica, che ha sputato sangue per riprendersi quello che aveva lasciato sulla strada, perché le lacrime di Tania Cagnotto, che prima erano di dolore e poi sono diventate di gioia, sono un altro simbolo di queste Olimpiadi, perché tutte queste cose poi ci fanno pensare ad argomenti molto più pidocchiosi, come sono 150.000, che sono un sacco di soldi, però torno a ripetere, io non riesco a scandalizzarmi per questo, e anzi se li meritano tutti quanti, se li meritano tutti. Beh, quanti l'avete spiegato benissimo questo nei giorni scorsi ed è molto chiaro e l'indignazione nei confronti di Federica Pellegrini io continuo a non capirla, ma è dettata in gran parte dall'invidia, in gran parte dalla piccolezza, in gran parte dal fatto che c'è molta gente che di sport parla solo una volta ogni tanto e spesso perde l'occasione di stare zitta. Detto questo, ognuno ha le sue opinioni e sono sacrosante e se le deve tenere. Se poi le esprime, le espone anche al telefono con noi, ne discutiamo serenamente e volentieri sempre. 800 24 00 24, Marco. Sì. Buongiorno. Pronto, salve, buonasera. Io volevo, mi sono messo in collegamento da poco perché non ho sentito se all'inizio ne avevate parlato, ma volevo parlare della semifinale che c'è stasera del Sette Bello italiano di pallanuoto contro la Serbia. Sì, non mi sembra durissimo. Che sport di grande sacrificio, di grande anche spettacolo, se uno ci capisce qualcosa, però non mi sembra mai che venga considerato, insomma, come si merita, perché questo sport è uno sport, come ho detto, già di tanto grande sacrificio, di ore e ore e ore passate in acqua, di intese con i compagni, è forse uno dei massimi giochi di sport di squadra, certo. Ha tante qualità, tante e anche tanti è anche spettacolare, è che un po' in uno sport maschio fisico molto di contatto, per cui insomma è anche uno sport meraviglioso diretto. Ma poi certo, Marco, ma poi la pallanuoto al massimo livello possibile, appunto, è uno sport meraviglioso. La nazionale di pallanuoto, non solo alle Olimpiadi ma anche ad europee mondiali, è uno sport che tutti seguiamo. Dai 24 Esatto, abbiamo, abbiamo una grande scuola, abbiamo una grande scuola, di più cosa vogliamo? Vorremmo questa sera battere la Serbia. Magari, il che mi sembra, diciamoci la verità, molto difficile, perché la Serbia secondo me è la più forte squadra delle quattro rimaste. Non a caso sono campioni mondiali, sono campioni del mondo, sono secondo Olimpioni, ci mi sembra, negli ultimi due anni hanno vinto tutto. Anche se hanno iniziato questa Olimpiadi con rallentatore, però sono andati, insomma, nelle ultime partite sono andati subito in quadro. Sì, poi l'altro giorno, non so se ha sentito, Pierluigi Formiconi ha detto una cosa molto sottile, molto molto maliziosa: i serbi quando arrivano alle ultime partite della prima fase guardano il picchetto, lei sa bene che cos'è il picchetto, e quindi magari così si spiega il loro avvio altalenante. Però è chiaro che questa sera si gioca per la finale olimpica, non partiamo battuti assolutamente, partiamo sfavoriti dal pronostico, ma come ci è successo molte altre volte, e poi non è detto che sia sempre finita male. Grazie Marco. Renzo. Sì, buonasera. Buonasera, dica. Senta, io ho sentito un paio di sere fa, non so se era lei il conduttore, parlavate... Beh, se ha sentito questo programma, sì. Era lei, lei sì. È? Carlo Genta. Ah, presente. Piacere mio. Senta, io vedo che avete tutti ascoltatori accondiscendenti, io lo sono un po' meno. Uh-huh. Per via delle medaglie... penso che i 150.000 euro che si danno per una medaglia siano un po' eccessivi, quando gli Stati Uniti avete detto che danno 25.000 dollari, gli inglesi non danno niente e stanno prendendo il doppio delle nostre medaglie, l'esperto lì, Turini, Leo Turini, ha fatto tutto un discorso che per invogliare gli sportivi a impegnarsi va bene anche pagarli, però cosa mi dice lei che gli inglesi non pigliano niente e pigliano il doppio delle nostre medaglie? Signor Genta, volevo chiederle un'altra cosa. Sì. Alle squadre dove sono 8, 10, 20, i 150.000 euro se vincono loro sono in totale o cada uno? Sono individuali, le medaglie d'oro sono individuali. Cavolo, allora ci costano se vinciamo, e poi noi vinciamo le medaglie, Renzo, ci costa. Nel beach volley, nel beach volley sono in due, un gran cassa su, insomma, chi è che pratica in Italia il beach volley? C'hanno 1000 persone, però ne parliamo come se ho si capito, vincesse, Renzo, la guerra. No, non ne parliamo come se si vincesse la guerra, tutt'altro, anzi la guerra non c'entra nulla con questi discorsi. Quanti in Italia praticano il beach volley? Non tanti, anzi non è vero che non sono tanti, lo praticano in diversi, ma qui stiamo parlando del massimo palcoscenico mondiale possibile, del massimo livello di professionismo possibile, e solo in pochissimi arrivano nel mondo a giocare per questi traguardi. Per arrivare a giocare per questi traguardi bisogna andare a lavorare tutti i giorni, e lavorare 8-10 ore al giorno come facciamo tutti noi. Certo, fanno un lavoro diverso, ma è un lavoro che, insomma, deve essere attribuito, perché poi siamo tutti contenti quando i nostri ragazzi raccattano le medaglie, quando vanno in prima pagina su Corriere della Sera, La Repubblica, La Stampa, eccetera, non solo sulla Gazzetta dello Sport. E magari ci arrabbieremmo come delle bestie o ci arrabbiamo come delle bestie per spedizioni deludenti, così come ci arrabbiamo come delle bestie se la Pellegrini arriva quarta. Dunque io non trovo nulla di scandaloso, ripeto, sono lavoratori infungibili, e torno su questa parola che secondo me è quella che rende meglio di tutti, perché né io né lei potremmo andare a giocare per una medaglia alle Olimpiadi, perché non ne abbiamo il talento, non ne abbiamo la capacità, e magari non abbiamo neanche lo spirito di sacrificio. Poi quei soldi che sono lordi, anzitutto li vinci se arrivi a prendere la medaglia d'oro, altrimenti no, in primo luogo. In secondo luogo, come diceva giustamente Leo Turrini, è uno stipendio che va spalmato lungo 4 anni di sacrificio, e non mi sembra poi un'esagerazione. Poi possiamo essere invidiosi delle medaglie d'oro, di quei soldi che prenderanno, ognuno è libero di pensarla come vuole. Secondo me è un È un corretto premio per una attività sportiva, qualunque essa sia, faticosa, durissima, che richiede tempo, sacrificio e qualche volta anche denaro. E gli impianti non pensate che siano gratis. Marco, provincia di Bergamo, buongiorno. Pronto? Buonasera, pronto? Dica. Buonasera, pronto. Buonasera, sono Marco dalla provincia di Bergamo. Niente, io a parte che volevo parlare con Elia prima o poi non c'è stato tempo e quindi parlo ora. Volevo fare comunque i complimenti ovviamente a Elia per le emozioni che ci hanno dato, che ci ha dato in questa bellissima serata dove ha vinto l'oro. Specialmente, se non ricordo male, il terz'ultimo sprint, quando praticamente si è quasi incomitato con Cavendish, lì proprio siamo saltati sul divano. Mi è piaciuto veramente tanto, perché lì proprio ho capito che lì poteva vincere l'oro, perché quando uno cerca la volata così, io corso in bicicletta so cosa vuol dire a tutti quelli che chiamano e dicono che 150.000 euro non sono sudati. Io dico a quelli che parlano di andare a fare un qualsiasi tipo di sport, a farlo a livello professionistico, ok? Cosa vuol dire il sacrificio che si fa? E 150.000 euro rispetto ai soldoni che danno quelli del calcio non sono non facciamo però dei paralleli, dei paragoni. Diciamo anche, sottolineiamo anche che i diritti televisivi delle Olimpiadi costano milioni e milioni di euro e chi vuole trasmettere le Olimpiadi in TV spende un sacco di soldi per averne i diritti, per l'appunto. Dunque, a tutti piace guardare le Olimpiadi in televisione, a tutti piace guardare lo sport al massimo livello possibile. Allora che cosa dobbiamo dire? Che quei soldi dovrebbero essere spesi, quelli del canone, per farci vedere qualcosa di diverso? Insomma, è un evento planetario, economico, anche economico, anzi è il più importante dal punto di vista economico, evento sportivo che esiste al mondo. Dunque non vedo perché i protagonisti di questo evento sportivo dovrebbero guadagnare zero. Poi in Inghilterra hanno altri, prendono zero per le medaglie, ma hanno altri sistemi di retribuzione. Negli Stati Uniti, come diceva anche Leo Turrini, il giorno dopo finiscono i medagliati sulle scatole di cornflakes e prendono molto di più di questi 150.000 euro. Dunque ogni paese ha i suoi sistemi, ma state tranquilli che se vogliono fare atleti professionisti anche in America, anche in Inghilterra, i soldi devono guadagnarli. Ci fermiamo per la borsa, abbiamo in linea anche Luigi Antonio, state con noi. Figa fuga di Kifle è stata placcata. Tutti convocati. Figa fuga di Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Tutti convocati alle Olimpiadi. Dietro da Mahmoudi, il muro vincente dell'Italia! Il muro vincente dell'Italia! Il set lo portiamo a casa noi, 31-29 con 4 set volo annullati. Il set lo portiamo a casa noi. Sia pur tenuto a muro Italia per chiudere con Lanza e finisce qua il secondo set. Bello sprint dell'Italia, 25-19 con la battuta ritrovata e con il nostro muro. Sbaglia la battuta, eccoci qua. Maruffa vince l'Italia, vince 3-0 per la sesta Olimpiade consecutiva. L'Italia è in semifinale, il che significa nobiltà e tradizione pallavolistica. Siamo pronti ad affrontare il transatlantico americano. Oh, quando qualcosa stava andando storto in questa gara. Ci pensa lo zar? Beh, oddio, non lo so, veramente io l'ho vissuta, adesso non mi ricordo nulla di questa partita se non quel primo set strappato con le unghie e con i denti. Credo che lì sia passata gran parte della chiave di tutta la partita. Noi ce la metteremo tutta ed è da un po' di tempo che non vinciamo le semifinali, vogliamo sfatare questo tabù delle semifinali. Allora, un primo set addirittura selvaggio, quello di ieri con l'Iran, l'abbiamo vinto, e poi negli altri due le cose sono state un po' più semplici. Adesso l'Everest da scalare, cioè gli Stati Uniti. Ciao Lorenzo Bernardi. Buonasera, ciao a tutti. Lollo. Prima parlavo con Leo Turrini, mi diceva gli americani sono un po' più abituati di noi a queste partite, siamo ancora una squadra molto giovane che sta vivendo l'inizio di un ciclo. Siamo anche gli unici nel lotto delle quattro a non aver ancora preso quella dannata medaglia che ci manca, la maledizione dell'oro. Ma quello sì, speriamo che questa maledizione venga sfatata quest'anno, perché penso che la nazionale italiana, la nostra nazionale, sia di un valore assoluto e che abbia tutte le caratteristiche non solamente tecniche per finalmente arrivare a questo traguardo che abbiamo inseguito per moltissimo tempo. Per quanto riguarda la nazionale americana, guarda, senza ombra di dubbio è una nazionale molto molto forte, perché è una nazionale abituata a giocare partite importanti, abituata a giocare competizioni importanti. Poi lo spirito americano, loro non hanno il campionato in patria, però a ogni quattro anni, quando ci sono le Olimpiadi, riescono sempre a mettere in campo delle formazioni molto molto brave, molto forti, molto, molto preparate. Però quest'anno, soprattutto negli ultimi mesi, anche nella World League, hanno giocato in Polonia, hanno giocato delle manifestazioni dove commettevano molti errori. E anche adesso li continuano a commettere. Chiaramente non sto dicendo che sono una partita facile, sì. Ma quindi sono attaccabili sulla loro propensione all'errore? Ma sono attaccabili prima di tutto perché noi siamo una squadra molto forte, molto forte, e secondo perché loro stanno disputando delle partite dove commettono più errori delle altre volte. La partita che abbiamo vinto nel girone, non dimentichiamo che nel primo set, che è finito 25-23, hanno commesso 9 errori punto. Quindi sì, significa che è una squadra che non ha gli automatismi, non ha le sicurezze, non ha lo stato di forma che aveva, come posso dirti, fino alla Coppa del Mondo dell'anno scorso. Sì. E li abbiamo anche battuti nelle Final Six di World League. E queste, sai, sono le ultime due vittorie che ha avuto l'Italia, sono importanti anche dal punto di vista psicologico, sia per coloro che le hanno subite, ma soprattutto per noi che abbiamo vinto, quindi con la consapevolezza che possiamo vincere. Io penso che l'Italia è favorita. Senti Lorenzo, come ti è sembrato l'andamento del torneo italiano? Partiti forte, poi una leggera flessione, diversi infortuni, qualche dubbio, qualche problema, è tutto alle spalle secondo te? Ma guarda, flessioni di gioco io penso che loro l'abbiano avuta nella partita col Canada, dove è anche fisiologica, ma paradossalmente secondo me ben venga questa sconfitta, perché sai, vincere 8 partite su 8, non è mai facile. È meglio che ogni tanto ci sia un'interruzione, soprattutto poi che per noi non contava nulla. Certo, e su questo sono state fatte tante polemiche, ne abbiamo parlato anche l'altro ieri col tuo amico e mio amico Zorro, è un discorso che io e lui facciamo da 1000 anni. Io continuo a pensare che se sul campo ti procura una situazione di vantaggio, ora non voglio fare l'antisportivo, su quella situazione di vantaggio puoi anche costruire il prosieguo del torneo. Ma guarda, io sono perfettamente d'accordo. Coloro che, sai, chi vince festeggia e chi perde deve spiegare un qualche cosa. Quindi per l'ennesima volta la Francia, che si è trovata, non Francia loro, ma le squadre che si sono trovate ad essere eliminate, devono spiegare delle cose, che preferiscono cercare in qualche cosa altrui le motivazioni delle loro sconfitte, delle loro eliminazioni. Cioè la Francia ha perso con l'Italia, con gli Stati Uniti, col Brasile, quindi penso che sia più che giusto e più che logico che non abbiano l'opportunità di partecipare a un quarto di finale. È vero, il Canada è entrato nei quarti di finale per una grandissima partita che ha giocato la prima contro gli Stati Uniti. Uh-huh. Però sai, queste manifestazioni te le devi andare a guadagnare, le qualificazioni, i quarti di finale, i semifinali e i finali. Non è che puoi lamentarti se una squadra fa riposare o non fa riposare dei giocatori, certo. Quando questa squadra ha la possibilità di vincere la medaglia d'oro. Sarebbe assurdo, no? Che spremessi i giocatori quando può farli riposare. Anzi, a quel punto potremmo essere critici nei confronti di chi non lo ha fatto, di un commissario tecnico che non l'ha fatto, Lollo. Certo, esatto. Detto questo, io penso che l'andamento della squadra italiana, della nazionale italiana, sia stato eccellente, ma forse direi addirittura in crescita, anche perché ieri sera contro l'Iran, sai, il quarto di finale è una partita molto delicata, sì, una brutta partita, quelle partite che hai tutto da perdere, niente da guadagnare se sei la squadra più forte, la favorita, quindi ti senti un po' la pressione addosso, se perdi, hai arrivato primo del girone, perdi, sei eliminato, ricordiamoci a Londra, no? Gli Stati Uniti erano primi del girone, noi quarti, abbiamo vinto molto facilmente. E adesso penso che saranno due partite, sì, dove la tensione ci sarà, dove ci sarà grande agonismo, però saranno anche una sorta un po' più di gioco vero, un po' più rilassati, perché sì, nei finali ormai sei in zona medaglia, e quindi il percorso, il grande del percorso l'hai fatto. È chiaro che non hai fatto niente fino adesso, perché poi se perdi la semifinale e la finale arrivi quarto. No, ma è chiaro, però una volta che arrivi in zona medaglie, tutte le caratteristiche sia tecniche che psicologiche che fisiche che mentali per giocarsi, per vincere la medaglia d'oro. Io ti dico, fra le quattro squadre la favorita vedo l'Italia. Senti, ma faremo festa tutti insieme, no? Io credo che anche voi della generazione di fenomeni, forse potreste togliervi un peso dall'anima, o no? Ma guarda, sai, io sostengo che quello che ognuno di noi ha fatto nessuno ce lo può togliere. Quindi noi sappiamo quello che abbiamo fatto, sappiamo, cioè, noi siamo stati orgogliosi di aver fatto parte di questo gruppo, di aver riavviato, perché dopo le Olimpiadi dell'84 la pallavolo aveva vissuto un periodo buio di risultati con la nazionale, quindi dall'89 in poi siamo ritornati ad essere primi o quasi sempre fra i primi del ranking mondiale. Questa è una cosa che noi ci deve dare grande orgoglio. Poi ci mancherebbe altro, noi facciamo parte di un movimento come è tutta la pallavolo italiana, e saremo i primi ad essere felici se questo gruppo riuscisse a vincere la medaglia d'oro, perché vorrebbe dire che la nazionale, la tradizione, la pallavolo italiana ha sempre un qualcuno che segue la strada, cioè, che avete inaugurato voi, che siete stati i precursori, cioè i profeti di questa che hanno portato comunque a questa mentalità, a questa squadra, certo, a questa mentalità della pallavolo italiana. Grazie Lollo, grazie a presto, ciao, abbraccio, ciao Lorenzo Bernardi, uno dei più grandi pallavolisti di tutti i tempi, per chi non se lo ricordasse più, Lollo Bernardi. Luigi, buonasera. Buonasera. Dica. Buonasera signor Genta. Sì. Volevo farvi i complimenti per la trasmissione, che è bellissima. Grazie. Oltretutto mi allietate quando torno dal lavoro alla sera, tutte le sere. Ancora domani, ancora domani. Una cosa che volevo fare era gli auguri, i complimenti a Elia Viviani, che purtroppo è andato via. Ma ci sta ascoltando, mentre è in viaggio verso la festa. Mi era passa strana quando c'è stata la premiazione di Elia Viviani. Hanno tirato su la bandiera a strisce orizzontali con i colori dell'Italia, invece che e volevo sapere se per caso si erano sbagliati a mettere sulla bandiera, perché la bandiera dell'Italia ha le strisce verticali. Certamente. Poi mi sembra che c'era una versione, o guardavo adesso, però. Ah, io non proprio lo so. Non mi cogli impreparato su questo, ma propenderei assolutamente per l'errore, perché tutti, se sappiamo, vedere, tutti sappiamo come è fatta la bandiera italiana, se potete, a strisce orizzontali, me la sono persa. Se vi capita di rivedere la premiazione, andiamo a vedere e chiederemo spiegazioni su questo punto. Chiederemo È possibile che ci sia una versione anche di quest'altra bandiera, però mi sembrava quella dell'Ungheria più che altro. Versione ce n'è una e una soltanto. E quindi, infatti, quindi non ci sono dubbi su questo. Sì, propenderei secondo... per l'errore umano. Propenderei per l'errore umano. Al volo, Antonio. Buonasera, mi dica. Sì, buonasera a tutti i convocati. Buonasera. Senta, io volevo tornare ancora sul fatto delle medaglie, dei 150.000 euro lordi, diciamo, no? D'altronde noi italiani ci evidenziamo un po', vedi Parlamento europeo, vedi altri chi sono, gli ambasciatori, hanno lo stipendio più alto di tutti, diciamo. No? Uh-huh. Io ho letto alcuni giorni fa che questi atleti, dopo le Olimpiadi, per 4 anni percepiscono, e finora nessuno l'ha detto, io non l'ho sentito, volevo sapere se lei magari ne sa qualcosa, percepiscono 50.000 euro all'anno come bonus, perché tutto deriva dal fatto che mi sembra nelle Olimpiadi che ci sono state in Grecia ci sia stato, mi corregga se sbaglio, ci sia stato una specie di reazione sul fatto che erano tassati, diciamo c'erano tasse di un certo peso, no? E così la federazione ha deciso di intervenire in questo senso, dando a tutti gli atleti 50.000 euro per 4 anni. Sì. Dica se ne sa qualcosa, se è vero. Io fin adesso, fin d'ora, non l'ho ancora sentito da nessuno. Sarà senz'altro vero. Che sappia io, ci sono, come ci sono sempre stati, i premi per le medaglie. Poi molti atleti fanno parte dei corpi di Stato. Ma d'altra parte, se vogliamo avere degli atleti professionisti che vincono delle medaglie, se vogliamo avere, insomma, lo sport è un valore anche per tutti noi. Non credo che si possa avere e gioire e godere gratis di questo valore che è lo sport, come l'arte, come altre cose che pure sono sovvenzionate dallo Stato. Non credo che tutto debba essere gratis, sono contrario a questo. Voglio farvi sentire invece un audio che introduce una grande polemica. Будь смиренным, будь кротким, не забудься о тленном. Власти данной Богом, сынок, будь навеки верным. Я люблю Россию, я патриот. Terzo e ultimo round. Il giudice ha dato vincente il primo round, ha dato vincente anche il secondo round. Ci si sta giocando la medaglia d'oro olimpica dei pesi massimi tra Eugeni Tishenko, russo, in rosso, e Vasily Levit, il kazako, in blu. È capo in piedi, l'arbitro non interviene. Come fa? Poggi. Cioè, questo round è 10 a 8 per il kazako. Guarda come fa a perdere tempo. Non è possibile. È una vergogna. Non è possibile. Io dal primo round ho visto che l'arbitro stava aiutando Tishenko. Che stanno facendo? È salito anche il Catman. Non ha niente. Mamma mia. Non sanno più che si dovevano inventare. Non sanno più che inventarsi per farlo andare avanti, per fargli passare questi 50 secondi. Il russo. Vergogna. Allora, noi vi lasciamo. Fischi da tutto il pubblico. Paolone Vidoz, Putin controlla gli arbitri. Te l'ho detto l'altro giorno. Sì, sicuramente c'è Putin di mezzo. Sì, sappiamo che ha in mano mezzo mondo, quindi anche gli arbitri da box sono controllati direttamente da Putin. Intanto alcuni sono stati mandati via dall'AIBA, hanno detto ci scusiamo, ma questi signori all'Olimpiade non arbitreranno più, quindi non mi sembra una favola questa di arbitraggi non coerenti. Queste cose sono vecchie come la box, sì. Questi arbitri, giudici che decidono chi vince e chi perde a loro discrezione. Del resto è questa storia antica. Adesso magari è sulla bocca di tutti questi scandali che succedono, eccetera, però nel frattempo sono successe parecchie cose che diciamo gli esterni al mondo della box non ne sanno niente. e quindi rimangono sorpresi, ma in realtà questa è una prassi della box. Non si può fare niente, ci accontentiamo così. Se ti va bene con l'arbitro, se non c'è Putin di mezzo, magari vai avanti, altrimenti vai a casa. Ma di, più o meno è così. L'altra soluzione è quella: alleati con gli amici di Putin e allora puoi fare più strada. Questa è tendenzialmente la via più breve. Fino però, al primo russo che incontri. Diventa miglior amico del tuo nemico. Bravo, bravo, bravo. Senti Paolo, ti piace questo torneo di box? Per quello che hai visto? Non l'ho seguito particolarmente, anche perché lavoro in campagna e in agriturismo è abbastanza impegnativo. Però appena ho tempo, fra la 1 e le 2 di notte, butto sempre l'occhio, ascolto sempre le telecronache di Novelli e Oliva che mi piacciono. E poi ho visto alcuni match, quello che posso dire è un po' l'unica critica che posso fare, diciamo, sulla partita italiana di box, che mi spiace sinceramente che sia andata a finire così, è che non ho visto uno stile, una scuola. Sì. Mentre se guardiamo un pugile russo, un pugile kazako, un pugile cubano, americano, ha uno stile, ha un tipo di box. La scuola italiana non ho visto questa impronta chiara di uno stile, di uno. Ho visto parecchie buone atleti che speso con le mani giù, cosa che sinceramente io non lo apprezzo, ma per una questione mia di vecchio stile mio legato al passato, però non ho visto la scuola italiana vera di box. Però ricordiamo che la scuola italiana è una scuola storica che ha dato alla luce campione, insomma, lo sappiamo bene. Un'ultima cosa, Paolo, cosa dici a parecchi ascoltatori che si lamentano dei premi, degli alti premi per i medagliati italiani? Perché vorrebbero tutto gratis. L'altro anno ho preso circa sui 20.000 euro dell'ultima tranche delle Olimpiadi che avevo fatto a Sydney. Praticamente metà mi avevano dato subito, metà avevano messo su un fondo pensionistico, sì, che poi veniva rivalutato col tempo, ma io, siccome ho il mutuo da pagare l'agriturismo, allora ho deciso di ritirarli, anche perché lì non si sa come che andrà a finire, e allora ho deciso di ritirarli per pagare il mutuo. Tendenzialmente lo so che sono alti, sono ottimi premi, molto buoni premi, i premi che dà il CONI, però come diceva però prima, lo si fa di mestiere, ragazzi, fate il mestiere, è professionistico, esatto, la mia demenza pugilistica chi la paga? Nessuno, perché non esiste. No, nessuno, perché non esiste. Non esiste chi appaga, ma non state vedendo. Grazie Paolone, a presto, ci sentiamo. Grazie a voi, sempre ciao, un piacere. Paolo Vidoz. Ciao, ciao. Andrea da Trieste, al volo. Salve Andrea. Buongiorno, grazie per avermi chiamato. Grazie a lei. Credo che devo essere molto rapido. Allora, io sono sportivo, ho fatto tanto sport e il mio sogno è sempre stato quello delle Olimpiadi. Seguo vela in particolare. E, oggi io pratico il golf, sono un pessimo golfista. Vedere che Francesco Molinari ha rifiutato le Olimpiadi con una scusa, io sono pediatra così, passando, con una scusa come il virus Zika, che è assolutamente incredibile, è una cosa che mi ha fatto realmente male, oltre ad aver fatto secondo me molto male al golf italiano, che non è sviluppatissimo ma fa parte di un movimento mondiale con molti milioni di partecipanti e di praticanti. Sì. Allora io sono andato per curiosità a vedermi lo statuto del CONI e lo statuto della Federazione Golf, che ovviamente deve tener conto di quello del CONI. In entrambi c'è scritto con molta chiarezza che il tesserato è tenuto a rispondere all'eventuale convocazione. Sì. Ora, uno può dire anche delle cose credibili o non credibili, però il fatto che nessuno abbia avuto il coraggio di stigmatizzare seriamente questo fatto, che è stato, secondo me, uno schiaffo veramente a tanta gente. Sì, però Andrea, mi permette di estendere questo discorso al di là dei confini italiani e non soltanto a Molinari, perché il torneo di golf alle Olimpiadi è stato un flop clamoroso, perché nessuno dei grandi golfisti ci è andato, per Zika, mica Zika, adducendo infortuni più o meno pretestuosi. Quindi il golf, che si affacciava per la prima volta alle Olimpiadi, ha fatto una pessima figura in questa edizione dei Giochi Olimpici. Quindi se mi permette, io non me la prenderei ad personam, anche se è corretto, anche se quanto lei dice è corretto, io me la prenderei con i grandi professionisti del golf mondiale, che ai quali delle Olimpiadi non gliene importa nulla. Quindi tanto vale fare andare alle Olimpiadi qualche altro sport, magari non il nascondino di cui abbiamo parlato l'altro giorno, però qualche altro sport che ha anche maggiori tradizioni olimpiche. Stefano Borghi, buonasera. Buonasera a voi, ben ritrovati, che piacere. Che piacere mio. Allora, ce la fa il Brasile a sfatare la maledizione Germania? Perché adesso stiamo aspettando quello, dopo che hanno triturato l'Honduras con Neymar, eccetera, eccetera. Adesso hanno il grande fantasma tedesco. Sì, fantasma tedesco e fantasma dell'oro olimpico, perché il Brasile è la nazionale calcistica con più medaglie nella storia delle Olimpiadi, però sono 3 argenti e 2 bronzi, non hanno mai vinto l'oro, giocano in casa, hanno la Germania di fronte. Loro adesso se lo aspettano, perché il Brasile è partito molto male, ha fatto 2-0-0 le prime due gare con Sudafrica e Iraq, sì, quindi non sì, contro grandi avversari. Poi però ha fatto un cambio netto, ha cambiato il modulo, sono cambiati un paio di uomini, e io adesso, dopo diverso tempo, vedo un Brasile che gioca alla brasiliana, con quello che era il 4-2 fantasia di Leonardo, per darci un'idea. Un gioco allegro, un gioco offensivo, 5 giocatori spiccatamente d'attacco, un sistema che riesce in qualche modo a sostenerli, visto che non hanno mai preso gol. E guarda magicamente, dai fischi delle prime due partite, dalle magliette con cancellato il nome di Neymar e scritto quello di Marta, che è la principale calciatrice brasiliana, si è tornati ai cori, alla fiducia, al Maracanã che sostiene la squadra, per cui adesso ci credono tutti, le condizioni sembrano anche esserci. Purtroppo per loro però c'è anche una Germania che fin qui ha sbagliato veramente zero. Sì, gol record di Neymar, lo risentiamo. Tesissima semifinale, sarà l'Honduras a battere il calcio d'avvio. E si comincia, pallone per Vargas, lo tocca in mezzo a Palacios, ma subito un brivido Neymar, e il Brasile già in vantaggio dopo 15 secondi, ancora lui, Neymar da Silva Santos Junior. 15 secondi, Brasile già in gol, Honduras già praticamente a casa. Io credo però, caro Stefano, che il fantasma brasiliano, il fantasma di quel 7-1, poi sappiamo che i brasiliani con queste storie dei fantasmi, queste storie di fantasmi ne patiscono parecchio, quindi non sarei così, per me vince il Brasile, il Brasile, però non sarei così sicuro. Guarda, e tutte le immagini se non vince. Beh, ma veramente, no, è meglio non immaginarselo, perché un'altra botta sarebbe forse definitiva per un movimento in grande crisi. Ti dico questo, il Brasile secondo me è la squadra più talentuosa in assoluto dell'otto e anche di questa finale ovviamente. La Germania è la squadra con più progettualità, più organizzata, perché comunque ha una batteria di giocatori che sono già stabilmente dei protagonisti in Bundesliga. Però ho questa sensazione, come ti dicevo prima, il Brasile dopo diverso tempo gioca da Brasile, è tornato ad essere un Brasile, e quando il Brasile gioca da Brasile con l'allegria che lo accompagna di solito vince, però vediamo, è una grande finale, meno male, perché il torneo olimpico non è stato, per così dire, di livello eccelso. Sentivo, parlavate del golf poco fa, e anche il calcio, pur essendo uno sport olimpico di tradizione, si ritrova sempre un po' in mezzo in queste situazioni, però sono viste belle cose, belle storie, e la finale è veramente una partita di grande livello. Certamente, grazie Stefano, buon lavoro. Grazie a voi, ciao Stefano Borghi. Ciao, ciao. Allora, chiudiamo così il nostro programma, il nostro appuntamento con tutti i convocati alle Olimpiadi. Domani bis, anzi bis, che bis, sarà la 15ª puntata di tutti i convocati alle Olimpiadi, preceduto ovviamente come ogni giorno da tutti i convocati alle 14, dalle 14 alle 15. Ringrazio Claudia Schiattone, nostro autore, Leonardo Sirigato, Lorenzo Rotelli in regia, in redazione sbaglio tutti i giorni e tutte le volte, l'avrete capito, giuro che non faccio apposta, perché in regia c'è Pietro Lacorte. Ciao ragazzi! Se qualcuno non è d'accordo, due cose: uno, non mi deve seguire, la seconda... Tutti convocati! Andiamo a vincere ancora!